Ci siamo. Allora, Allegro moderato in band, grazie a Costo 18 di averci invitato, grazie a Davide, grazie a Roberto che così hanno voluto ospitare la nostra musica. Allegro moderato è una cooperativa sociale di Milano che da un bel po' di anni si occupa di fare musica e lo fa, diciamo, soprattutto così, con un occhio particolare verso la fragilità, il disagio e situazioni a volte un po' di fatica. Però quello che ci interessa noi portare in giro è della buona musica, della buona musica. E oggi vi facciamo sentire un po' di pezzi, di brani, e ci siamo accorti negli ultimi tempi che insomma qui la scelta dei brani è sempre abbastanza libera, un po' più o meno democratica, ognuno porta delle idee, dei brani che gli piacciono, eccetera. E ragionando ci siamo accorti che poi dietro questi brani ci sono sempre delle storie, delle persone, dei personaggi che in qualche modo hanno a che fare con noi, cioè ce ne rendiamo conto progressivamente quando suoniamo. Questo signore che avete qui alle spalle è un bassista che è entrato nella storia della musica jazz, rock, insomma tutta quella roba lì. Si chiama funky jazz, tutto, ha fatto di tutto. Si chiama Jaco Pastorius. Il pezzo che abbiamo fatto sentire non è suo, ma lui l'ha suonato, di P. Wells, ok, musica nera che lui piaceva tanto. Perché ci siamo accorti che ci piace la sua storia? Perché lui ha ha fatto una bella rivoluzione dentro la musica di quegli anni. Il basso, quello che suona Alessandro, era uno strumento un po' di accompagnamento, quello a quattro accordi. Vedete, fai bene. Guardate come lo fa bene il nostro Daniele. Perfetto. Era uno strumento d'accompagnamento. Lui l'ha fatto. Oh, però mi dovete far parlare. Se volete parlare voi, presentate voi, mettiamoci d'accordo. Allora, quindi lui l'ha trasformato in uno strumento solista fantastico, suonando in grandi gruppi come i Weather Report. E ahimè, la sua fatica e il suo disagio l'ha portato a essere una sera a essere massacrato di botte fuori da un locale perché non era proprio in forma, era un po' brillo, un po' fatto, e un buttafuori lo ha massacrato di botte e nemmeno a 40 anni ci ha lasciato, ma ha lasciato un'eredità, una grande rivoluzione all'interno della musica di quegli anni e non solo di quegli anni. Quindi ci piace suonarlo. Bene, ve ne facciamo sentire un altro adesso. Vai Nicole. No, questo là, questo è Pastorius da giovane. Vai avanti. Ecco qua, perfetto. Ok, Nostalgia in Times Square, questo signore... Ok, sistemiamo il microfono volo. Charles Mingus, uno dei più grandi musicisti che la storia del jazz abbia mai avuto, contrabbassista, compositore, pianista, ma soprattutto un grande attivista dei diritti degli afroamericani. L'immagine prima, Nicola, adesso diamo tempo a Nicola, che vedevate scorrere, lui ha scritto un bellissimo pezzo, che non è quello che vi abbiamo suonato qua, però ha scritto un pezzo fantastico che era il Fabulous of Fabius. Questa immagine del 57 vede questi studenti, che vi fa sentire il tema di Fabulous of Fabius precisamente. Grazie, grazie Carlo. 1957, in Arkansas, il governatore, questo Fabius, decide che gli studenti neri non possono frequentare le scuole superiori, andando contro una legge nazionale. E quindi, come vedete in questa immagine, vanno a scuola scortati dalla polizia. Mingus fece un pezzo fantastico per raccontare questa storia assurda, e noi lo abbiamo ricordato però con un altro pezzo. È dedicato proprio anche più a Times Square, questo quartiere di New York. Precisamente, abbiamo suonato Nostalgia's Times Square, dedicato a questo quartiere di New York. Bene, andiamo avanti, non mi ricordo cosa c'è nell'altra slide, vai Nicola, vai avanti. Ah, oh, ci sono questi, questi sono simpatici. Vai. Thank you. Peters. Sissy Stratt. Sissy Stratt, The Meters erano questo bel gruppo di, vedete che vestitini simpatici che dovremmo pensare anche gruppo noi. Funky. A dotarci, soprattutto, sì, mi vedo vestito in una tutina così. Noi ci piace fare anche un po' di funky, abbiamo suonato anche questo. Precisamente, solo che i Meters il funky lo facevano a New Orleans, profondo sud, avevano un coraggio pazzesco in quegli anni lì dove ancora la discriminazione negli Stati del Sud era pesante, ma loro sono partiti da lì e sono riusciti poi a arrivare anche a fare delle cose molto belle. Quindi, insomma, ci piace la loro musica e il loro coraggio di fare il funky a New Orleans negli anni 70. Bene, andiamo avanti. Vai Nicola. Oh! Ma sembra una bambina. Sembra una bambina, ma sì, però un po', insomma, adesso poi la vediamo. Vai. Lo vedete lo strumento che suona anche Paolo, ad esempio. Zappa era un gran chitarrista. Thank you. Mr. Frank Zappa, let's move to Cleveland, Bollani. Cioè, perché abbiamo scelto Frank Zappa si vede da solo, non abbiamo bisogno di spiegazioni. E lì ci piace solo perché è così, con così. Frank Zappa, andiamo avanti. Oh. Adesso lo senti. Che faccia è? In a curt. Adesso dall'album set a straight man to the late man, where have you been? I've been here and I've been there and I've been in between. I took to the wind, my words are all carried away. I took to the wind, the wind cannot hear, the wind cannot hear. I'm on the outside looking inside, what do I see? Much confusion, disillusion all around me. I took to the wind, my words are all carried away. I took to the wind, not you. The wind no cannot see. Daniele Moncherini al sax alto. Centuries kids are mad. Yeah. Bird, pie. Innocence rape with never buy. 21st century's kids are mad. Dall'album In the Court of a Crimson King, 21st Century Kids Eye Man, I Talk to the Wind, King Crimson. Quella lì non è una brutta faccia, come dice Daniele. Daniele è una brutta faccia, è la copertina di un disco storico dei King con la bocca aperta, non per far vedere le carie, ma è perché è una copertina storica di un gruppo storico che ha così iniziato insieme ad altri gruppi il prog, quella stagione fantastica, il gruppo di Greg Lake, King precisamente Crimson, dove i generi si mescolavano, alto, basso, musica classica, rock, jazz, c'era dentro tutto, e ci piace molto questa idea di mescolanza. Fa vedere le carie, anche tu c'hai le carie? No, e allora non far vedere la cosa c'è in bocca. Bene, grazie. Oh, bene. Faccia? Dillo, dillo. Fa così. Vai. Ok. Arrivo, eh? Thank you. Allora, quel signore lì, che forse qualcuno riconoscerà, spero proprio di sì, è Gian Maria Volonté, in un film terribile di Elio Petri, che era Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. La musica, questo bellissimo tema. E questa ne era proprio la sigla. È la colonna sonora, il tema fondamentale di quel film. Il tema fondamentale. Di Ennio Morricone. Un bel film su che cos'è normale, che cosa non è normale, su che cos'è il decoro, che cosa non è il decoro, che cos'è, lo vedete lì, si commenta da solo. Un film pazzesco, è una musica bella e incisiva che ci piace molto. Bene, e anche Morricone ci piace molto, nonostante ormai un po' così, fin troppo sdoganato, però è stato un grande musicista che ha saputo anche lui. Carlo, ma non è che ogni volta... Carlo è un jukebox, Carlo, facciti qua... Carlo, ok. Bene, Carlo, grazie. Questa che cos'era? Sono una volta in America, ecco, per fare un esempio di Morricone. Vabbè, Morricone è quello lì dei famosi film di Devo. Però è stato un musicista che ha mescolato. Oh, qui ce n'è un altro simpatico che adesso vi facciamo sentire, una roba che sicuramente i più non riconosceranno. Ecco, è proprio di quello che ci piace, così guardatelo che bel coraggio che aveva. Quell'altro che è alto, precisamente, non è dalla che è piccolo. Allora, andiamo. Domani è lunedì e noi suoniamo lunedì cinema. Dalla che era un gran tifoso del basket della Manarolo di Bologna, osava sfidare quei grandi campioni anche sul campo. È stato un grande musicista, ha fatto delle cose a volte discutibili, ma è stato comunque un grande musicista. Questa colonna è riconosciuta questa musica? Nessuno. Che guardavi i film il lunedì sera una volta? Questa sigla era di Lucio Dalla e noi non abbiamo preso il solito. Dalla che è stato più che in più un grande sassofonista, un clarinettista. È stato un grandissimo jazzista a suo modo. Bene. Quello è Arbore. Hai confuso personaggio televisivo, Daniele. Bene, andiamo avanti. Grazie Nicola. Oh, robottino. Come chi è? Robottino. È un androide che è in paranoia. Cioè è un androide. Bravo. Ok. Ci sei Paolo? Vuoi provare il suono Paolo? È un paranoide androide. Che lo sento poco. I Radiohead. Ok. Ci sei? Paola ha una pedaliera nuova di pacca, meravigliosa, una specie di astronave. Soprattutto la chitarra, una Squire. Vai. A lot of piggy. You do remember, my name, rain down, come on rain down, oh rain from a great height, from a great height. Questo robottino è il protagonista di questa canzone scritta da questo grande gruppo dei Radiohead ed è racconta preso da una saga letteraria americana dove praticamente questo robottino è in paranoia perché è stato programmato dagli uomini per fare delle cose molto semplici, se non addirittura umile. Poi ad un certo punto scopre invece di avere appunto sentimenti, un'intelligenza anche superiore. Io manco, non so se, se l'abbia scritta York. Non lo so. No, no, è un altro scrittore americano, ha scritto il libro, lui si è ispirato qua e ha raccontato la paranoia di questo povero robottino che in realtà scopre di essere molto più intelligente, sensibile e attento degli uomini e lo racconta in questa canzone. Vai Nicola, grazie. Oh, perfetto, questo è facile. Ok. Si vede da solo. Pensa, si vede da sola, cioè praticamente. Ok. I love a ride, I love a ride, my ma.

ginocchio, Suci. Allegro moderato in band, noi abbiamo finito. Noi abbiamo finito e chiudiamo con Pinotto. Grazie tantissimo di essere stati con noi. Grazie a Cox 18 che ci ha ospitato e a, come dire, questa due giorni meravigliosa. Vuoi suonare con noi? Vuoi suonare con noi? C'è una richiesta? Sì. Guarda. Okay. Vi presento i musicisti adesso. Vuoi suonare? You want to play? What? Giovane si chiama questo musicista? Elia. Elia. Ok, facciamo un pezzo, rifacciamo questo Pinocchio qua. Davide, vai le percussioni, dai. Oh. Sei pronto, Elia? Partiamo da qua. Elettra, vamos! Secondo sax Andrea Andrew Catagnoli. Al basso Alessandro Dobbiati. Alle percussioni Matteo Asnag. Le tastiere, parto prima da me. Per carità di tastiere e voce, Carlo Ciarri, pensa. Altra parte, Marco Sciamarella. Dietro. Andiamo dietro. Alla batteria, Davide Bagliani. Maestro di batteria, Claudio Damiano. Grazie a Cox, grazie a Nicola per il supporto tecnico, a Davide e a Roberto per questo bellissimo incontro. Bocca al lupo, buon lavoro e buona musica a tutti e forza e coraggio, ce la dobbiamo fare. Un caro saluto. Un bis veloce. Prego la tentativa. Ok, rifacciamo le zicche. Ok. Cast Warrior. Però potete ballare, cioè potete anche fare una sorta di Grazie. Thank you. Okay. Ready. Abbiamo un bel sito che si chiama allegromoderato.it, abbiamo i social, cercateci, cliccateci, seguite e seguite Cox 18. Grazie, un caro saluto, buona serata. Grazie ancora. Davide, vuoi rinnovare l'invito per marzo?